È andato al giovane rumeno Andrei Porcarea il primo premio degli Euronet Awards promosso dal circuito di radio europee cui partecipa anche Radio 24. Il giovane studente di giornalismo ha realizzato un reportage sulle problematiche delle persone disabili in Europa. Per lui due stage presso stazioni radiofoniche associate al network Euronet. Nella cinquina di finalisti la parte del leone l'ha fatta l'Italia con ben due presenze, Elena Roda, 28 anni, e Jessica Verzulli, 22, entrambe aspiranti giornaliste. Elena ha realizzato un reportage sui diritti delle donne nell'ambiente di lavoro, mentre Jessica si è concentrata sulle coppie di fatto e sui problemi che incontrano in Europa nel regolarizzare la propria posizione giuridica. Entrambe hanno potuto verificare la distanza che separa il nostro paese dal resto del continente su due temi socialmente sensibili. La cerimonia di premiazione è stata introdotta dal neopresidente del Parlamento europeo Martin Schulz, che ha definito la crescente disoccupazione giovanile in Europa uno scandalo e una vergogna, allineandosi alla posizione della Commissione europea, che preme per utilizzare i fondi comunitari attualmente non spesi per contrastare il problema. I think the fiscal compact has won. Schulz ha colto l'occasione per commentare la conclusione del vertice europeo di lunedì, un trattato troppo sbilanciato sulla disciplina di bilancio, così ha definito il Fiscal Compact, e a Radio 24 afferma: ho fiducia nel governo Monti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles.